Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Antonici, sì. Ciao Gianni, buonasera. Ui, ciao Gabi, allora? E allora Gianni, com'è? Ero nel sdraiato. Neanche io mi sono sdraiato in questo momento. Com'è? Gabi, sempre così, un po' di dolori, ma andiamo avanti, da. E più di più, ma io sono certificato. E a me mi ha preso la scorsa settimana, ha cominciato col mal di gola, poi tosse, raffreddore, e chi più ne ha più ne mette, e posto mi ancora me li ha lasciati, perché qualche colpo di tosse mi viene ancora. Bravo, sì. C'è questo Tonino Kawasaki, è uno di quelli, di quei contagiatori di influenza. Anche attraverso il baracchino, ciao, con chi sei? Con Gavino. Ciao Gavino. Ciao Tonino, buonasera. Hai capito, sto già, prima contagia, poi cerca gli altri. Positivo, è tutto un giro, è tutto un giro. Cioè, voglio niente, ieri, capita, oggi sono più tardi. Succede, io ho contagiato a Monica, la mamma, a Gianni, tanto ce n'è via. E poi il bello che più contagi più ti liberi tu, capito? E la contagiamo a tutti. Casino. Comunque a me fa la cosa mi ha portato. Tutta. Comunque non c'è Cristo che vaga, questo dottore ha detto che sì, quando finisce la sua, il suo ciclo, non c'è medicina che vaga, che sono tutti soldi buttati. No, ma infatti non bisogna prendere antidolorifici, cosa, non bisogna prendere, bisogna fare il suo ciclo, stare a casa, stare appena riguardati, stare a casa e non prendere medicina, perché intanto bisogna fare il suo ciclo, sì, è vero, e poi va. Adesso ho preso queste cose nasali. Queste cose nasali, anche se tutti sono riusciti. Per un giro ho preso, però sono stato a casa, poi sono sdraiato. Ho preso le 5, ma tutto. E poi ti indebolisce. Le bassa. Ne ho consumato quasi una scatola, una ogni 8 ore. Io ho preso quelle effervescenti, perché quelle grosse pastiglie non vedessi. Una volta ho tenuto due, ma graffiato la gola, non lunga. Effervescente, boh. E ne ho preso due scatole, grazie a Dio ce n'è ancora, ma comunque mi sono alleggerito, sono stato bene, dai. Queste 8-9 giorni mi è passato tutto. Ma io avevo un raffreddore galoppante, c'ho un'influenza, c'ho altro. Che ho misurato anche col tampone e niente, non c'avevo nulla negativo. Però il raffreddore, la tosse, quando tossivo mi usciva il fischio, guarda. E quella è asma. Gatturia, ma è come è, diciamo, cantato, che quasi. Il fischio grave è asma. Cosa, il fischio è grave? È l'asma. Quando è una cosa grave, il fischio è un altro, capito? Non quando c'era l'influenza. Perché uno appena sente il coso, si preoccupa. Quello fai quando c'hai l'influenza. Ah, io quando tossivo c'è un po' di fischio e basta. Però il raffreddore è sempre col fazzolettino in mano, perché mi colava, che è una cosa incredibile, che, per carità, cosa fai? E beh, l'asma, tu mi dici asma Gianni, e beh, l'asma cos'è? Ho detto, quando è grave, l'asma, che praticamente sono difficoltà respiratorie, no? Sono infiammazioni, quando uno c'ha l'asma riesce il fischio, ma non è il caso tuo. No, grazie a Dio respiriamo bene, io sotto che ci aveva il naso, per carità, guarda. Troppo, vabbè, comunque è passato. Non me lo voglio ricordare, dai, ce l'ho scaricato agli altri. Se deve dittare a sal. L'altro giorno in farmacia c'era una signora che ha detto, mi dia qualche cosa per farmi passare questa cavolo di influenza. Non ho la febbre, ma c'ho raffreddore, mal di gola, tosse. Io mi sono girato e te signora, se non fa soccorso è la farmacista, ma se non l'aiuti, invece che mettersi 10 giorni aiutandola con i medicinali ce ne metti 5, se gli dai un aiuto ci mette di meno. Ha detto, vabbè, questo non è quello che ha detto un primario degli infettivi, ha detto che non c'è nessuna medicina che la faccia passare. Anche a me la farmacia ha detto, deve fare il suo corso del freddore. Ho detto, guarda, io ho fatto il corso di età, corso Giovanni Pascoli. e quindi non mi è passato, e quindi devi fare cosa Giovanni Angiù, capi, ripeto, e magari sta tossendo, aspetta, e tu dici così, è un'influenza di cavolo proprio, ma già passa, da pochi giorni poi passa. E beh, quello è vero, se il cuoco viene di colpo, ma che lo vai non sta tranquillo, poi zacca, e vabbè, già passa anche quello. Comunque dai, non è in forma pesante, però dava fastidio sempre quei fazzolettini, per carità, e vabbè che fazzolettini a me non mi mancano mai, perché ne compro sempre 3-4 pacchi da 30, quindi per le rosfine, che sono un bel. Il fatto è che ti dimentichi di metterli in tasca molte volte. Ah guarda, io ce li ho in macchina, ce l'ho in tasca giù botto, in casa, me ne sono me, sono tutti sparsi i pacchi di fazzolettini, quindi non mi frega mai. In macchina c'hai anche quelli per i bambini. Lo sportello di destra tu c'hai le salviettine umidificate per i bambini. E quello perché sono delicato io per le maluzze, boh. Guarda che c'è spirito di osservazione, tu non te ne accorgi, ma io faccio radiografia a tutto. Ho notato. Ma Natalino non si è sentito? No, Natalino si starà buttando a faini o pizza. E infatti ci ho notato, quello delle salviettine da bambini eccetera, sono sulla parte destra del passeggero, e quando siedono le femminucce ci devono pulire loro delicatamente. Ma cosa? Tu hai sbagliato, ho comprato le bigliaduisci. Grazie, Simone. Cosa femminucce, non di fauri? Tu mi hai preso quelle perché pensavi di prendere salviettine umidificate, e preso quelle per bambini. No, perché poi quelle dei bambini sono più delicate e sono anche profumate. Ma che le altre sono profumate? Quelle che io ho preso per l'ospedale erano profumate. Si sono servite perché il petto così, mi sono tutto quanto profumato, poi è venuto l'infermiere e mi ha detto, vabbè, è una cosa inutile perché tanto adesso la laviamo noi. Vabbè, ma almeno sono profumato. Mi hai contagiato con lo sbadiglio pure a me. Gavi, se ne tratta. Sì, nuovo. Io ho un po' di QRM già, tu ce l'hai? Sì, appena, un bel alto. Poi quando parla Gavino se lo porta presso un po'. No, Gavino adesso si sente che ha la voce bassa perché non sta bene, ma già si capisce là. Comunque, ieri mi ha fatto mangiare la pizza, chissà. Io imbecille ho preso doppia mozzarella, tutta notte sullo stomaco ce l'avevo già, per carità. E allora non l'ha levitata bene questa pizza? Ah, pizzicotto dura, prendiamo la sua torsola, sempre lì. No, mi capisci. Adesso siamo ma capito. Sì, sono comprensibile già la cosa. Sì, capito. Si sente che sei un po' basso perché non stai bene, è normale. Ma ti stavo dicendo, bisogna andare a Porto Torres a provare quella della ruggia, la pizza. Io a Sassa l'ho già mangiata la ruggia, a Porto Torres no. E dove rimane Porto Torres? All'entrata, dove c'è il rifornitore di Cida. Il fornitore di Cida? Ma è solo il primo? Ah, secondo. Ah, capito, rimane di fronte così, eh? Più o meno, sì, in quei pressi lì. Rimane proprio sulla strada, giusto? Ho capito. Niente, l'altro amore che mi ha portato in un posto a mangiare qualcosa, mi ha aggiunto gli spaghetti con le vongole, mi sembra, che lì l'ha fatto male, a me mi ha fatto schifo, e siamo andati via delle Vigne, questo ristorante sulla destra, non mi è neanche piaciuto, è lì che ho visto che c'era anche cosa, frate di amore, che con amici stavo mangiando. Niente, non mi è piaciuto quel ristorante, poi dove gioco più andato, per carità. E come si chiamava questo ristorante? Dirò che non me lo ricordo già, era bruttino pure. Non era sotto un palazzo, era libero e fatto un po' strano, diciamo, il tetto. Era tutto piano terra, non c'era palazzo. Carillon. Bravo, mi sembra più Carillon. Vedi là. Ma ciamba d'Uruguay, ma cioè ciamba di Madrona. Stavo a 10 metri. Cosa, Gabi? Che abitavo a 10 metri dal Carillon. Comunque a me non mi è piaciuta la verità, Gabi, non ci sono più andato. No, noi abbiamo fatto lì la festa di una mia collega che è andata in pensione, la prima mia collega che è andata in pensione, e ti dirò che bene, ci siamo divertiti e abbiamo mangiato anche bene, però c'era una vecchia gestione, non so se adesso abbia cambiato gestione. No, è sempre lui, è sempre... dipende, allora lui di lì quando si mangia bene perché le barche erano a mare, perché lui di lì prende solo roba fresca, capito? Quindi prendendo roba fresca prende a volte che la giorni ce l'ha, giorni no. Quando per esempio se fai il martedì mattina, il martedì sera o il sabato sera trovi roba fresca, però se vai per esempio giovedì c'è due giorni tempo cattivo non puoi pretendere mangiare la pesce fresca. Cada una anda la cola da comprarlo, rubesci. Ma può andare anche al Cona da comprarlo, però devi essere fresco. Io al Cona ho visto il camion, ho visto dei cavi, dei prodotti che hanno le loro barche, c'è pesce fresco. Perché non... c'era addirittura il pesce fresco, c'era anche dello spini nelle pescherie, se proprio vogliamo... cioè, si vuole far sapere. Perché si vedono i furgoni di Rivieci andando alle loro spine a portare il pesce nella pescheria. Comunque, quelli diretti non ne hanno a pescheria, perché in Vera Portosa è un diretto e pescheria non ne hanno. Mentre quello di Mura, che c'è a Pedanieta, di fronte a Mauro, quello ce l'ha. A Sorso c'è la pescheria. Ma non è diretto però. È diretto, non diretto, della pescheria, c'ho le triglie belle e i furgoni freschi l'altro giorno. Il popolo a me piace un bel. Infatti l'altro giorno con Gianni stavo parlando che avevo una gana di mangiare porco in agliata, come te ne fai una lira, così monoga. Sì, alla lira. Porco buono lo fanno a Porrottore, se lo fanno ad Alghero, lo fanno a Castelsardo, lo fanno a Tintino, lo fanno a Santa Teresa. Vai a mangiare, io ho mangiato dei polpi parati e fritti a Santa Teresa, un ristorante. Erano 10. Poi anche ad Alghero si cucina bene, a Castelsardo, a Tintino, già sono tutti i paesi di mare dove puoi trovare quello che cucina bene il ristorante e quello che si napuzza, patina e basta. Sicuramente se fai a Ferragosto, d'estate, tu puoi pretendere di mangiare bene, mangiare pesce fresco. Però se tu vai per esempio a settembre, ottobre, inizia a prendere, a trovare, magari fanno la linea ogni due giorni e mangia anche roba buona. E io quando ero ricoverato all'ospedale c'era questo delghetto che non ho ricoverato e parlando di polpo, ho detto aspetta un attimino, ha chiamato al telefonino la moglie che era di Alghero, lui ascolta domani Enrica viene a trovarmi l'ubo penagliata, che qua ci sono degli amici che non vogliono assaggiare, l'ha regato vedo poco Gavi, cosa tutto era buono, mamma mia, anche la scappetta l'ha giocato. Sì, no, quel polpo è buono, tutti buoni. L'ubo è per buono, pure lui cattoppa, perché io ho mangiato polpi e carciuti, se non l'avete mai assaggiato provate. E allora? È così, però è caro, Buzzino sono vecchiare, mi piace più andare a pescarlo, caro. A me forse me ne portava Gavino l'uboetta, ogni giorno andava a Malai, faceva i polpi e poi me li portava dentro il secchio della Valentina, ci aveva pieno d'acqua, tutti vivi. Aspetta che rispondo a un messaggio che Antonella, che lavora alla Murcia Centralino, mi ha scritto: caro Antonio, io il 3 gennaio ho perso la mia donata mamma, ma cioè dai, gli mando le condoglianze un attimo. Ma qual è il portatore? Va bene, dai, ne approfitto per fare un paio di cose qua, io già vi ascolto. Ehi, fai pure, non c'è problema. Mandate le condoglianze. Ma chi è Antonella, quella del portatore, che è venuta con lui? Antonella è quella che è robusta, che abbiamo quando ho fatto la cena. Esatto, è di Portottore quella. E cosa ne so, che non gliel'ho mai chiesto veramente, è già. Sì, ho capito, dai. Sì, è di Porto Torres, me l'ha detto lì. Io non gliel'ho mai chiesto, quindi non posso dirci né no perché non gliel'ho mai chiesto. Non è cosa mio, anche se lavoravamo insieme, diciamo lì in ufficio centralino, non gliel'ho mai chiesto. Però posso dire che è un'attiva molto molto simpatica. Me l'ha scritto quasi alle 7 il messaggio e vabbè, io l'ho visto adesso. Vabbè. La vita è quella, c'è poco da fare, si vive, si nasce, si vive e si muore. E allora, infatti molte volte dice: ma perché cavolo sono nato, io se poi devo morire, a Biglialucci. Vabbè, speriamo di campare il più possibile, però vedo che il tempo sta volando, corre troppo, cavolo. Io mi sembra che fino a ieri avevo 13 anni, mi sono svegliato solo stamattina, ne ho 68, boh. E dopo i 50 anni comincia a pensare. No, già io dopo il militare mi sono volati gli anni, la verità, boh. A me non mi sono volati perché non ne ho fatto militare, ah? Via da te. Ma Natalino sarà meglio di fare neghicchio, ma boh. Cioè ne ho fatte 5 giorni esattamente, al Marinferma la Maddalena. Io ne ho subito un anno di ritardo in esercito, perché ti spiego. Sono partito alla Spezia, al Mare d'Epoca, 10 giorni. Avevo una cista nell'occhio che mi teneva l'occhio un po' gonfio, ho detto no, mi dovete operare, insomma trasferire al militare, che era vicino stesso. Ho detto io vedo l'occhio, dovete operarmi, a me fa male. No, farò rivedibile, non operiamo nessuno qua gli occhi, qua là, qui può fare, rivedibile, avrei preso il cisto, e va bene, non va bene, tanto ero 10 giorni chiuso. E quindi niente, ho fatto rivedibile, dopo quasi un anno poi sono partito registro a Roma. E a Roma ho fatto il CAR, 4 mesi, stavo troppo bene. E poi mi ha sbattuto in mezzo ai berretti azzurri, al CALE, centro direttamente aviazione del centro di esercito, in mezzo agli elicotteri, a Viterbo. E vabbè, comunque. E abbiamo fatto anche quello già, piano piano. E vabbè, comunque già. Insomma, due giorni così. Lo militare, o ti impara se più fuibo, più filmagassa, oppure diventi più soggetto di prima. Se ti prendono di punta, sti militari di punta, guai. Io quella settimana che ho fatto c'era un nonnismo, hanno aperto la porta, e si sente la porta aprire, io mi sono guardato sotto le coperte, appigliato lì, c'era fatto un gavettone. Si prende questo qua, incazzato, si alza, ha preso la bottiglia, l'ha spaccata, e praticamente quello là ha preso, come lui sia stato per andare in bagno, gli ha spalmato tutto il letto di popò, poi gliel'ha riabbassato, gli ha dato a coricarsi e si è riempito di merda. Ha preso la bottiglia, l'ha spaccata, cazzo, gliel'ha passata in faccia, ui, già messo con gargando bocca. Ma se faccio una cosa del genere va subito in processo, corte marziale, sono cacchi zuimi. E infatti li hanno presi, già no, tutti e due li hanno isolati. Dai, mi sa che oggi veramente i funghi me ne faccio, ma fine che vanno a quel paese, mi ci rovino, peccato. Sono cognatica, se mi posso i funghi, ieri volevo fare funghi, le nage, mi chiama una pizza, ma faccina tu la pizza, cazzo, per tempo. E se ci vuole a fare i funghi, basta lavarli, fare a pezzettini, io li faccio a filettini, li taglio così, quelli lì. Però le altulano i cucinontini, e poi me li taglio come la carta. Aspetta che sono al telefono, ti miro già. E io. Chi è? Antoine Chose, la storia di Antonio. Ma come si chiama un mio forte? In che senso? Geniale. Prova. 1, 2, 3, prova. E c'è quasi 9:30. Cosa l'hai fatto? Sono andato un pochettino, ma non va il poco. Ma bello anche il segnale che è molto alto. Cappa. E dove sbuca adesso? No, non sbuca tanto, ma devo vogliamo fare un devo andare, devo andare. Che vuoi? Se tu mi sembra che te lo facciano fare. Un tubo di parabolica, una staffa di parabolica, rimuovi il tubo dritto, rimuovi due staffe e lo puoi alzare. Ehi, così voglio fare. Così va bene, così dovrebbe, tanto l'antenna non è pesante. Però li devi mettere anche delle staffe a muro, quello come ci sale. Ma che cosa mi devo inventare, sta? Ti fa il po'. Ho detto, ma cosa mi devo inventare? Un ponteggio, ma ti conviene direttamente chiedere se te la farò mettere sul tetto, se no se ti vedono facendo troppe cose, poi non te ne vado in vano. Scusa, mi sa, ma sono abbastanza. è quella dove c'è la sala? No, mi sono dentro il mio aereo. Ah, cazzo, ma c'è il matrimoniale? Eh sì. Oh, che hanno trattato lo druppo. Che cosa? Ho detto, oh, che hanno trattato lo druppo, che se no da voi si fascia. Che cosa avete in fascia? Facendo bilibo di bu. No, cosa avete in fascia? Vabbè, una l'avranno vestita per voi e l'altra per il bambino, sì. Capito già. Eia, eia. Acciugavit. Ma lasciamo per loro la città qua, sarebbe piccola. Inizialmente siamo venuti qua, che è presto. Vabbè, anche la Cisa aveva fatto così. Te ne ricordi se aveva fatto la stanza sua? C'è quello cugino, vera? Sì. E tutte di più. Mondate, di tutto, vera. Sarei cotto tutto vola, sarei cotto tutto, alla bici la Iana, sarei cotto tutto vola. Ma adesso va a chi, Giancarlo? Sì. E ha bisticciato con tutti. Aveva tirato lo schiaffo anche a una ragazza. E quello che ci hanno mandato. Ah, ecco. Allora è successo così. C'era una chiamata al telefono. E questa ragazza stava ridendo da prima però. Stava ridendo, ha continuato a ridere. Lui si è incazzato, ha tappato il coso del telefono e ha fatto un ciaffo. Ha detto, vattene fuori. Secondo me sta già qualche pittino, ma perché tu allora c'era un cambio a posto umano? E c'era quella greffa, non mi ricordo cos'era successo, a Tito mi pare che l'aveva bisseguito a Marrusso, a Vincenzo, a Bolani. Beh, ma è tu quando era giovane, no? E altro, ammettati una cosa, che chi su che ti cura c'ha più sempre, nella vita non sei mai più forte, più a poi ci sono quelli che non usano le mani, quando vedono che uno è forte, più la devi la misura, si devi dare la busciacca e ti parano, come ha fatto quella lì Putin, è parato all'acqua. Non solo ultimamente, se te ne ricordi quando andavamo ai concerti lui non se ne scendeva mai dalla macchina perché non ce la faceva, non poteva stare in piedi, scendevamo solo io e tu, te lo ricordi? Sì, no, non era più grato tanto, ma era giovane, non era più, era giovane, non so come si fa, anche non ha mai acciappato lo gioio, se ha acciappato lo gioio, guai. Io conosco gente, ce n'era uno, sai cosa faceva? Tu eri in piazza, magari in Piazza d'Italia, parlando in greffa e cosa fa vedere, passava lì se ti cudiava un ciaffo ad un mezzo e se ne andava. Una volta c'erano questi tre ragazzi che avevano fatto il capannello, ora stavano parlando e uno di questi aveva i bicicletti grossi, mi dice che tu pensi che sia soggetto, dai. Cazzo, va questo qua, prende, dà uno schiaffo, si gira a questo, si legava i bicicletti, ti ricudo una giussa tu. Io dico, se ne ha mettato che sta cagando un capo, l'ha lasciato subito in terra. No, che ti ha fatto bene. Ha fatto bene, no, ma tu non mi sa che tu qui a rispetto, capito? Ti giravo le palle quando te la chiesa ieri, di quello che ti aveva detto di non attaccare le sirene quando era il polisoccorso, te lo ricordi, che la fascia duravo? No, quello lì non me lo ricordo. Allora, mi aveva raccontato che quando usciva con l'ambulanza, questo capitano lì gli aveva detto di attaccare le sirene più in là perché gli dava fastidio quando attaccava le sirene. Lui ha detto, se io devo fare l'incrocio, la sirena la devo attaccare. E poi mi fa. E l'ho preso e l'ha attrappato due sedili di lavoro. Quelle sono cose, va benissimo la storia. E lui aveva ragione, lui è cazzo, è vicino che voleva tenere il silenzio, cosa può dire la macchina? Aveva ragione sì lui. Però poi dice che mi l'ha fatta pagare. Non so cosa l'ha fatto, non me ne ricordo, però me l'aveva raccontato. Nanni. Gianni. No, non sono Garvino, sono Claudio. Ciao, buonasera. Non so con chi stai parlando, ma lo sento basso basso. Ascolta, ho trovato un Luranus dentro l'armadio. Dimmi se funziona, se no ce l'ho con la mondezza. Funziona anche bene. È una bella radio. Cos'è un Luranus? Ehi, cioè non mi ricordavo quanto era, lo stavo mettendo a posto e stavo mettendo a posto un po' di roba. E l'ho trovato, l'ho acceso, accende, c'è la frequenzimetro, un casino di cose. A me non piace come radio. Però ho sentito che c'era gente, ho detto se esce bene lo lascio, altrimenti ti do una profondezza. Quindi mi confermi che va bene come modulazione. Ehi, a che microfono c'hai? MB+5. Va bene, va bene. Una bella forte, dai, presente, una bella modulazione. No, anche a me l'Urano, se l'avevo venduto perché non mi piaceva molto. Non era molto. E vabbè. Ma io per Natale mi sono fatto un regalino, mi sono regalato un bel ricevitorino, dai. Ricevitore base già? Ehi, a base ma molto compatto, capito? È base ma è compatto. Non è di quelli grandi. E adesso mi dovrebbe arrivare a fine mese, prima dell'altro, non arriva subito, ma dovrebbe essere bellino, tutto touch screen, c'è un sacco di roba. Sì, vabbè, ma ricevitori vanno bene un po' tutti. Vanno bene un po' tutti, molto bene. Ok, almeno puoi ascoltarti anche un po' di decametri, che un po' di VHF, UHF, eccetera, eccetera. Ok. Ascolta, lo Smith lo vedi per darmi il segnale che ti faccio due passaggi? Sì, lo vedo, ce l'ho da fare, sono col Galassi, gli Smith se lo... Allora, questo è il primo passaggio Gianni, guarda a vedere, questo è il primo passaggio, perché c'è due potenze, questa radio, non so chi cazzo me l'aveva data, boh. Questa è la prima potenza, ok, prima potenza e seconda potenza, quindi questa è la potenza bassa praticamente, e questa è la potenza alta, facciamo un interruttore dietro, funziona? Io ti devo dire una cosa, che già con la potenza bassa mi arrivi 9.30, al massimo del segnale, più avanti non va, come faccio a darti l'altro? Cazzo, vabbè, allora niente. No, volevo capire se funzionava. Comunque mi stai confermando che la radio va bene, si può usare questo macchino. No, già esteticamente è una bellissima radio, molto bella, ma il funzionamento che non mi piace, perché se ti ricordi ogni volta che la spegni praticamente se ne va a 26 MHz e quindi devi stare sempre a girare, a fare, a rimetterla com'è, capito? Ma queste radio così non piacciono, e infatti non l'ho mai usata, adesso l'ho vista e ti dicevo se funziona, se non funziona ti darò una mombezza. Invece se mi stai dicendo che funziona la conservo, magari servirà a qualcuno, tutto qua, va bene, dai. Ti lascio in compagnia, non so con chi stai parlando perché con questa radio non lo sento, chi è? Momo, stava modulando. Sì, ma va bene. se non me l'avessi detto pensavo fossi qualunque, dico la verità, sta uscendo perfettamente, fa molto bene. Io mi ricordo che quella radio aveva una batteria per tenere le memorie, quando io l'ho venduta c'era scaricata questa batteria e doveva cambiare il nuovo proprietario, e l'avevo detto l'unica cosa che c'è è questa batteria che vuole cambiare per tenere le memorie, boh, basta. Ah ecco, magari anche questa è così, già non lo so, io c'ero da tanto tanto tempo, ma da un bel però, questa era addirittura la radio di Coso, di non mi ricordo ma come si chiama, che non parla più. Venduta a Eugenio, ma ci vediamo forse di arrivare a Eugenio, non mi ricordo, comunque abbiamo fatto due o tre passaggi e questa mi è rimasta, ma ti giuro non sapevo neanche di averla. Tutto qua, va bene, dai, allora saluto Antonio Bombolo, ciao Antonio se mi stai ascoltando, con questa radio deve essere un po' più sorda e ti sento basso, basso, basso, non ho manco capito che eri tu. Se mi ascolti ti saluto, un abbraccio, continuate pure, io allora questa l'attacco, la conservo, allora, se capita magari la uso ogni tanto giusto per farla andare, visto che Gianni mi ha detto che funziona bene. Antonio, se mi ascolti a te il cambio, ciao, buonasera a tutti, grazie del controllo. Ciao a tu, ciao. Mi hai sentito Claudio? Certo che lo sento. Vabbè, l'ultimo occhio, dimmi Claudio. Sei tu anche che stai parlando, mi arrivi in basso con questa radio, ma non è colpa tua, sicuramente è questa che è un po' sorda rispetto al campo, dai. Mi ascolti bene lì, Antonio? Certo che ti ascolto. Ok, dai, stavo solo provando questo round. Così lo stacco, l'ho rimasto a posto, era giusto per capire, perché c'è anche il collegamento del, deve essere lo stesso collegamento del Galaxy già, perché a me mi era rimasto il microfono del Galaxy, quindi deve avere lo stesso collegamento, vabbè. Dai, continuate pure, rimango in quel X che metto a posto qua. Grazie del controllo, vai Gianni. Scappa, dai, buon cuore X. Allora, noi siamo qua. C'è anche Tolino, Tolino. Ascolta. Cazzo, io pitiro, ma portatile. Ehi. Quello è il signor ricevitore, non lo dà nessuno. Quello costava 1.200.000 lire quel portatile. Ma non mi comprendo un caso. Quello c'ha tutto, banda laterale, c'ha tutto. Ce l'avevo io quello lì, lo io pitiro, cazzo. A me mi sarà bruciato Garighelli, mi si è bruciato tutto, l'ho dato in corto. Ma se no era il signor ricevitore. Prende tutto, anche, c'è anche le bande laterali. Io pedaggio, ma non mi comprendo un cazzo. E mi dirà Natalino, Natalino queste cose già si arrangia. Io Fittelo è un grandissimo ricevitore e costava pure. Lo so. Avanti, avanti. Chi c'è già? Che mi ero sentato. Ciao Antonio. Ciao, io e Bombo, non so se l'ascolto. Eia, ciao Antonio. Ma scusami un attimo. Però a livello QRM. Cosa? Torino livello QRM lo sì. Io lo sento, si porta il QRM appresso Antonio. Segnale buono però, radio. Torino, tu mi ascolti da qua? Sì. Mi ascolti bene anche tu? A bomba. Ok, dai. E allora già, otteniamo questo baracchino, come dice qualcuno. Lo rimetto dentro l'armadio. Ah, no, sto provando un lounge, dovrebbe essere tipo Galaxy, Pluto, una cosa del genere. Però non sapevo se funzionava o meno, stavo mettendo a posto e adesso avrei che lo controlla Gianni. Se funziona lo lasciamo da parte, eh. Va bene. Ciao Tonino, buonasera anche a te. Allora Anto, hai un problema, perché vedi, non ti sente manco bene Tonino, io ti sento mezzo al QRM. Non so, pensavo fosse questa radio mezzo sorda, ma boh. Riprendi Tonino, dai, rimango il QRX, se mai entro dopo a salutarti. Ok, ciao anche a te comunque. Sì, no, allora. Purtroppo Antonio sta usando la boomera, quindi anche la posizione che ma sta un po' di QRM, se lo porta a peso la radio ce la massa, avesse avuto più amplificato lo saltavo leggermente meglio. Purtroppo lo sento a volte, quando non c'è QRM è perfetto, radio perfetta, segnale 7,9, 9,10, però la radio oggi lo so un po' troppo male. Niente, a me mi arriva un po' basso, non so, va brutta. Grazie dei controlli comunque che metto a posto qua, così questa radio sappiamo che è funzionante, ma può servire a qualcuno in emergenza e ce l'abbiamo di scorta. Buona serata nuovamente a tutti, grazie dei controlli, vai già. Ehi, ciao Mocore X, dai. Avanti, Momo. Ciao, grazie, sentiamo. Ma tu gliel'hai venduto a Mambo questo? Cosa? Il mio pensiero tu gliel'hai dato? Non me lo ricordo, lo sai. Io mi ricordo che gli avevo dato una di quelli che, come quello che sta usando, un Uranus me lo ricordo, il President me lo ricordo, e un po' glielo ho dato di apparecchi. Di questo di un pensiero non te lo ricordo, mi pare che me l'hai dato tu. Comunque quello è un buon ricevitore, se l'ha bruciato l'alimentatore, se l'ha bruciato, ma il resto funziona. No, oh, io sono le batterie, ma non mi comprendo un cazzo già. Perché ci sono gli strip, ci sono i passi, se non conosci i passi, gli strip da 2,5 eccetera eccetera, bisogna conoscerlo, capito? Chiedere a Natalino pure l'ha avuto, perché quello a me me l'aveva venduto Natalino, che ce l'aveva comprato nuovo e poi me l'aveva dato a me. Ma lo dà, ecco un attimo, riprendi il confronto, ma si accende altro. Ma come funziona, si accende? Ma io non mi comprendo nulla, devo capire come devo fare. Avanti Tony. Allora, io c'ho questo QRM strano, un po' rimane silenzioso, Antonio ascolto bene, poi aumenta il QRM e fa trrr, capito, questo rumore brutto se lo porta appresso, va bene. No, io ascolto benissimo, vabbè, forse io perché sono anche vicino. A me questo QRM mi sale a Santiago 5-7, pensa un po', e Antonio se lo porta appresso, tu no perché sei più forte il segnale, quindi lo copri. Ma è... vabbè. Magari oggi c'è un po' più di QRM in effetti, l'altro giorno non ce n'era niente, qui fai avanti io ieri. Si sente a cantare? Canta che ti passa la paura, diceva mamma. Dunque mi sono già preparato una bella insalata, mangio le leggere stanotte e vado, Poi mi faccio una bella cotoletta di pollo e sono a posto. Vabbè, ti hai mangiato anche la pasta stasera. Voglio che voi sia ben andata in ascolto, niente, ma che cosa c'era? Anche la crema in me? Sì, anche la crema, l'ossigeno, questi peccati veniali. C'era crema e marmellata, un cocktail. No, la marmellata c'era buona, era buona, era bella, bella teccia era. Lì non si scherza, lì le fa buone. A te ti piace cremosi, e quando è cudro mosso ti dice le creme a tutti i bianchi. Mangio maniera di questi gornetti, ma me le hanno prusi anche le ciabatte piene proprio. Vedi. E bisogna preparare anche io qualche cornetto qualche mattina, dai, e qualche ciabatta. Prima devi chiamare presto. Non sei uscito all'ultimo passaggio. Ho detto, il numero ce l'hai? No. E vabbè, lo cerchi su Google, cerchi nome e cognome e già te lo dà. Via. Aspetta che faccio uscire Causi, stanno lamentando, vogliono uscire forse a fare bisogno. Comunque anche stamattina quando sono arrivato un bel po' se le avevano comprate, le mie erano già da parte. Eccomi qua. Hai capito Tony? Quando io sono arrivato stamattina alle 9:25, le mie me le aveva già messe da parte, ma la vettura era già quasi vuota. Che le fa proprio poche, ne fa. Ma se va molto, perché non le continua a fare anche dalle 10 fino a mezzogiorno? Non ne fa poche, ne vende molte, quello è il discorso. E chissà quanta gente ci va e se non ne ha più, cioè, scusa un po', ne fa un po' di più così uno se va anche più tardi le trova. Perché lui ha detto che la sera loro non aprono, quindi le fa solo per la mattina, capito? La mattina, ma fino a... Ma alle 10:30 non c'è più niente, no, fino alle 10:30 a mezzogiorno almeno doveva avere le pazze. Ma non ci vogliono perdere adesso, non si può più sprecare la roba. Prima se ti avanzava... se ti avanzavano oppure non sei uscito dai radio per niente. Perché non sto premendo bene, sono cucucato. Cosa ti stavo dicendo? Che prima se ti avanzava qualcuno la regalava, la faceva, adesso non te lo puoi più permettere con quello che costa la roba. Lo so. È tutto un casino già. Bisogna aumentare tutto, adesso aumento anche io i prezzi miei quando mi chiamo a fare qualche lavoro, aumento anch'io. Da quando cominci? Spadina, 50 euro. Da quando cominci a aumentare i prezzi? Da ieri ho già aumentato i prezzi miei, se non mi chiamo a cambiare una lampadina 50 euro. Figa, se sei bugungaro. Ci vuole, innanzitutto sono un operatore specializzato. Spostarmi con la macchina, prendere l'attrezzatura, perché se è rimasto il pezzo dentro una lampadina, come succede molte volte, ci vuole delicatezza, con calma, piano piano. Fa fare come ho fatto con la mia collega, dovevamo cambiare con una lampada neon di quelle lunghe del banco di salumi, per banco dove ti servono, dai. Era fulminata, mi ha detto già non è che mi compri questo neo che non si vede nulla, vabbè sono andato da Branca, gliel'ho comprato, l'ubilia, invece che chiudiamo neo, la pigliando dalla parte dove fa la corrente, cazzo la cosa la secchiata, si attaccando a me, mi ha mandato tutta abbracciata e mi ha secchiato pure a me. Bisogna stare attenti, li prendiamo per il vetro non te le dà corrente perché è l'ultimo isolatore, capito? Invece dove c'è il metallo è ovvio che il reattore che la corrente entra e esce, fa il passaggio, lo start e la partenza, fate si illumina, ti dà poi il neon praticamente sono anche pericolosi tra l'altro perché hanno anche mercurio dentro, poi succede un'esplosione praticamente, c'è il gas e tanta altra cosa. Niente, adesso lo sta andando forte tutti quelli a LED che sono i migliori che ci sono, non scaldano perché il neo scalda, non scalda, cioè poi consuma di meno, 90% in meno della lampadina tradizionale, adesso a poco. Cioè il neo consuma di meno, poi se il neo ha LED è ancora di meno. No, il LED, allora... Il neo costa il suo consumo a 36 watt e basta, tu metti la luce che ti dà un neo da 36 watt o 58 watt, te metti con i LED, ti dà la stessa potenza e il consumo è molto molto inferiore e dura anche di più. Io qua nella stazione c'ho il neo a LED, c'ho il neo a LED che mi illumina tutta la stazione di notte per la modulazione notturna. Io ho quella lampadina tutta a LED fuori in giardino e praticamente quando uno si è fulminata l'ho cambiata, quella fulminata l'ho aperta, sono tutti LED in giro. Che se ne va di ultimi? Lo so che già le fanno, sì sì. Poi la signora è fissata con i LED, lampadine, tutti questi cose, sa che si legge già da internet, c'ha anche proiettori, già li ho visti, no? Io in casa ho tutto LED, io lampadina normale ho basso consumo, non ne ho. Ho tutto LED, tutto, fuori, dentro e ogni luogo. No, io ho quella a basso consumo, ma non sono a LED, ma sono a basso consumo. No, consuma, scalda e consuma Gianni. Tu lascia un'ora accesa, poi la togli e la tocchi, la lampadina è calda. Mentre invece quella LED sono sempre fredde, tranquille, non consuma nulla. Una vesseria. È come il LED del baracchino, mi rimane sicosa. Ma quella di cucina già l'hai vista la luce che fazzi. Cazzo, quella è bella, l'ho presa da Bricco. Io ho una serie di lampade che avevo maniatico di lampadine prima. Io ne ho una addirittura fa 300 watt di illuminazione a LED, enorme, bella. Poi ne ho un'altra 150 watt. L'ho provata una volta, adesso mi ha ruggito, no, la gabbettina, non mi piacciono mai in casa, come dici. No, in cucina già ci voleva, poi in cameretta c'avevo un portalampada del lampadario che era lava sul blu e faceva la luce molto soffusa. E ho capito, c'è il portalampada che era la lampadina, ma sì che si vede bene. Io addirittura ho anche una spina da 10 ampere che l'attacca e l'ha presa e va a finire un portalampada attacco ai 27. Poi metto la lampadina, se tu lo c'hai per esempio, non c'è la corrente, ma uno così posso dire non c'è nulla attacco per mettere una palina, non c'è nulla in una camera, c'è solo una, due prese e boom. Io ho quello che ci adatta la presa e ci avvita la palina sopra, di mezzo c'è la musica. E ce ne sono dei tipi lì a coso, ci sono anche delle lampadine particolari che si vede tutto il ferro dentro, grosso, non so a che cosa serve. Sì, ma sono sempre che scaldano e consumano, capito? Oh, yeah. Vabbè. Oh già, comunque meno 4, io proprio penso anche da giornare, continuo a farmi adesso la cotoletta e mangiuchiamo un pochettino, dai. Ok, dai, ci sentiamo domani, Giovanni. Oh già, domani se è presto vado con, posso, da Mario, mi faccio dare questo cacchio di cinghia, così posso cacciavite la forbice e te la cambio, così sei a posto. Va bene, sentate la palmetta che è rotta, poi sono tirati, è una fesseria, dai, non c'è problema, e dato che ci siamo cambiamo anche la cinghia che è corta, quella che avevo messo. Ok, dai, buon carica quando lo fai. Ecco che non l'ho visto, a Tyson non l'ho visto uscita, già. A che era Gucado? Beh, Lucio. Ok, dai, ci sentiamo Gianni, stai bene, buon carico quando lo fai, saluta Elena. Alle prossime, ciao ciao. Hai visto l'altro di Bulldog? Cosa? Che hai visto l'altro Bulldog che c'ho? Eh beh, no, comunque è Lucio Tyson. Io ho visto quando mi ha aperto la porta, quando venga l'assessore, lui è già davanti alla porta dell'assessore, lo sa già. Sì, a tutti quelli che conosce fa così, va a prendere all'ascensore per accompagnare dentro a casa. Vabbè, dai, vado anche io che così mi faccio le panine e quella lì adesso non so se... la gara di va, se io tocca a me a fare la cirugare. Ok, d'accordo, già dai. Beh, c'è ancora 4 ore di tempo. No, 12 minuti di tempo delle panine. Ci sentiamo, ciao ciao, buonanotte. Ciao ciao, vamos a ballare con te, cartelle. Ok, ciao. Ciao ciao, ciao Antonio, ciao anche a Gavino, se all'ascolto. Io faccio corretti, dai, ci sentiamo domani. E io stavo per entrare, stavo. Non si comprende un cazzo di questo. Antonio, ciao Gavino, se all'ascolto. Ciao ciao. Prova ad andare nell'SSB. Stai chiudendo? Io sì, Arto. Sto chiudendo, sì. Devo farmi l'iniezione, devo portare giù il cane, fare da mangiare, eccetera. Ci sentiamo. Va bene. Ciao ciao.